Anne-Marie Selinko. Anne-Marie Selinko nacque a Vienna nel 1914 in una benestante famiglia ebrea austriaca di imprenditori tessili. La sorella minore, Liselotte, nacque 3 anni dopo e Anne-Marie le fu molto legata. Il padre aveva lasciato l'IKG, Israelitische Kultusgemeinde, nel 1916, ma l'anno dopo, quando Liselotte nacque, vi fu ugualmente registrata, poiché la madre vi rimase iscritta fino al 1918. Successivamente la famiglia si convertì al protestantesimo, ma questo non servì, come vedremo, a risparmiarle la persecuzione. Anne-Marie studiò per qualche anno lingue e storia all'Università di Vienna, lavorando come giornalista, tra l'altro come corrispondente dall'Austria per il quotidiano francese L'Intransigeant. Quando a 23 anni, nel 1937, pubblicò il romanzo Ero una brutta ragazza, tradotto in 12 lingue e trasformato in un film, i critici la misero sullo stesso piano di Vicky Baum, l'altra nota scrittrice ebrea austriaca più anziana di 30 anni, rifugiata negli Stati Uniti e autrice di una cinquantina di romanzi, molti dei quali divenuti film, tra cui Grand Hotel con Greta Garbo e Joan Crawford, che vinse l'Oscar nel 1932. Il 13 marzo 1938, con l'Anschluss, l'Austria fu annessa alla Germania nazista. E chiunque avesse contezza del pericolo fuggì dal paese il più rapidamente possibile. La 24enne Anne-Marie, che aveva acquisito la nazionalità danese tramite suo marito, il diplomatico danese Christiansen, sposato lo stesso anno, riuscì a fuggire a Copenaghen senza problemi, portando con sé la madre. Subito dopo, il marito di Anne-Marie tornò a Vienna col fratello, il quale si offrì di sposare Liselotte pro forma in modo che potesse anche lei fuggire in sicurezza in Danimarca. Ma Liselotte, che era già fidanzata, non accettò, fuggendo invece in seguito col marito nei Paesi Bassi, erroneamente considerati sicuri per gli ebrei, mentre invece sappiamo dalla storia che non lo erano affatto. La filosofa Edith Stein fu catturata insieme alla sorella proprio nel monastero carmelitano di Echt, nei Paesi Bassi, dove si era rifugiata per sfuggire ai nazisti. Liselotte e la figlia infatti furono arrestate e morirono ad Auschwitz e la madre si suicidò in seguito alla notizia. Nel 1943 la Danimarca fu occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Anne-Marie si unì al movimento di resistenza e fu per qualche tempo imprigionata dalla Gestapo. Quando venne rilasciata, fu costretta a fuggire col marito anche dalla Danimarca. A bordo di un peschereccio, i due riuscirono a raggiungere la Svezia, dove Anne-Marie lavorò per un'agenzia di stampa a Stoccolma. Verso la fine della guerra, prestò la sua opera come interprete per la Croce Rossa. Nel 1948 nacque il figlio Michael, che però morì in giovane età in un incidente. Anne-Marie lasciò il corpo nel 1986, a 72 anni, in Danimarca, dove è sepolta nel cimitero di Copenaghen, dopo aver devoluto la sua considerevole fortuna a un fondo che sovvenziona con borse di studio gli studenti dell'Università di Copenaghen. Tra il 1930 e il 1950 scrisse diversi bestseller in lingua tedesca, tutti quanti divenuti film. Era una brutta ragazza, divenne un film tedesco nel 1955. Domani sarà migliore, divenne film nel 1939 nei Paesi Bassi e 2 volte in Germania nel 48 e nel 57. Oggi mio marito si sposa, divenne film nel 43 in Svezia, poi nel 56 in Germania e nel 2006 in Austria. Ma il più noto dei film ricavati dai suoi romanzi è il colossal hollywoodiano del 1954 Désirée con Gene Simmons e Marlon Brando. Ed è questo il romanzo che vogliamo proporvi, l'unico romanzo di Anne-Marie Selinko tradotto in italiano, che parla della vita della giovanissima Désirée Clary all'epoca della Rivoluzione francese, fidanzata ripudiata di Napoleone Bonaparte, il quale ritenne più conveniente per la sua carriera sposare l'aristocratica Joséphine de Beauharnais, molto ben introdotta politicamente. Per ironia della sorte, invece, la giovane borghese, figlia di un commerciante di stoffe di Marsiglia, Désirée Clary, divenne regina di Svezia e Norvegia. Nel frontespizio del romanzo si legge la dedica alla sorella Liselotte. alla memoria di mia sorella Liselotte, della sua gaiezza e della sua bontà con profondo dolore. Come scuola delle donne ci risulta chiara la connessione che Anne-Marie sentì tra Liselotte e Désirée, la schiettezza, l'onestà e il candore di entrambe. Il romanzo è in prima persona, come diario di Désirée tra il 1794 e il 1829, evidenziando attraverso la scrittura il suo processo di crescita da fanciulla a donna. Anne-Marie dipinse un quadro vivido della Francia durante gli ultimi anni della rivoluzione, le uccisioni indiscriminate durante il terrore, nonché il sanguinario regno di Napoleone. I Bonaparte, madre, sorelle e fratelli, descritti come una famiglia di avidi parassiti. Napoleone, vittima della sua megalomania e del suo amore per il potere, è presente in ogni pagina mentre getta l'Europa in una serie senza fine di guerre, abbandonando anche Joséphine quando non gli sarà più utile per sposare, come sappiamo dalla storia, la granduchessa asburgica Maria Luisa. Anne-Marie Selinco ebbe un occhio attento e lucido per la politica, il che rende questo libro interessante come molti altri romanzi storici scritti dalle donne che vi abbiamo proposto. Anne-Marie Selinco ebbe miglior fortuna di altre grandi scrittrici ebree quali Edith Stein, Irene Nemirovsky e Gertrude Kolmar, il cui innegabile talento non servì ad evitare loro di morire ad Auschwitz. La scuola delle donne vi propone di Anne-Marie Selinco Désirée. Quella che ascolterete non è l'edizione Neri Pozza che vedete in copertina, ma una vecchia edizione Garzanti del 1969, tradotta da Carlo Picchio. Da Devana, buon ascolto.